Radio 24 Reportage. We Are One. Dalla Svezia, la musica dell'Eurovision unisce l'Europa. Di Marta Cagnola. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra ambire poi alla pace. Un evento record. Sono stati oltre 170 milioni gli spettatori che in tutta Europa hanno guardato l'Eurovision Song Contest 2013 da Malmö, in Svezia. Il grande festival musicale quest'anno ha messo a confronto 39 paesi, tra quelli aderenti all'EBU, l'Unione Europea di Radiodiffusione, l'ente che associa operatori teleradiovisivi pubblici e privati europei. Anche in Italia lo spettacolo ha raggiunto un risultato record di share, arrivando al 10%, incollando gli spettatori al televisore, in particolare per seguire le sorti di Marco Mengoni, che ha portato a casa un autorevolissimo settimo posto. L'Eurovision Song Contest però porta con sé tanti miti da sfatare. È vero, ad esempio, che l'Italia è tornata ma non vuole assolutamente vincere? A Malmö ne abbiamo parlato con Nicola Caligiore, relazioni istituzionali e internazionali RAI e capo della delegazione italiana. Questa è ovviamente una stupidaggine. È chiaro, non nego, non mi nascondo dietro il fatto che ospitare questa produzione è una cosa impegnativa, però ci sono paesi piccoli che sperano, farebbero di tutto per vincere, e televisioni che sono un trentesimo della RAI che sarebbero in grado di ospitarlo. Tra le altre cose, il comitato organizzatore dà una grossa cifra per la produzione e poi con le istituzioni locali, con la vendita dei biglietti, con gli sponsor internazionali si riesce a a coprire una buona parte dell'evento. Chiaro che ci sono paesi che hanno un coinvolgimento di tipo governativo molto forte, perché per loro è un esperimento di public diplomacy. L'Azerbaigian è il caso proprio più eclatante degli ultimi anni, che io conosco bene, e loro hanno voluto con l'Eurovision dimostrare di esserci, di fare parte, puntavano addirittura al fatto che che ospitare l'Eurovision avrebbe in qualche modo aiutato a poi ottenere le Olimpiadi del 2020. Poi in realtà la cosa non è andata, con grande tragedia loro. Però quello è un altro discorso. Cioè, quando dice l'Azerbaigian ha costruito uno stadio, ha speso 100 milioni, 200 milioni, quello è un discorso. Tanto sono cifre che poi ancora esattamente nessuno ha capito quanto realmente abbia speso l'Azerbaigian. C'era speso moltissimo, non c'è dubbio. Però è un altro paio di mani. Hanno rifatto una città con la scusa, ma ospitare l'Eurovision significa fare una trasmissione televisiva e fare un bello show, non significa fare le Olimpiadi. Noi, d'altronde, se noi non volessimo vincere non avremmo cercato Marco Mengoni. Il punto dell'Eurovision è creare un grande consenso attorno a un'esibizione italiana, dare la più alta promozione all'industria creativa italiana, una canzone scritta da italiani che rispetta perfettamente la nostra tradizione musicale, offrirgli una passerella globalmente tra tutto l'evento, più di 100 milioni di spettatori, più tutto l'indotto nei social media che nessun'altra trasmissione in Europa ti dà. Voglio dire, secondo me è comunque, anche se per assurdo, anche se uno dovesse arrivare 26esimo, hai già guadagnato. La misura di un successo all'Eurovision è anche riuscire a entrare nelle classifiche dei download europei, perché l'Eurovision non è più solo spettacolo o operazione culturale, è anche, grazie all'evoluzione della musica digitale che è senza frontiere, ottimo veicolo promozionale. Il general manager Sony Italia, Daniele Menci. Beh, l'opportunità è molto importante, perché comunque l'esposizione che dà un festival come l'Eurovision è veramente ampia, e quando tu vuoi lanciare un artista all'estero, comunque avere un trampolino di lancio è la cosa migliore, perché molto spesso gli artisti italiani, soprattutto in questo periodo storico, è tanto tempo che non c'è un artista italiano che veramente vende all'estero, dopo Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro l'ultimo. Essendo così tanto tempo, c'è bisogno di una storia da raccontare. L'Eurovision rappresenta una storia da raccontare, soprattutto nel caso di Marco, che ha una canzone così bella, che ha avuto così tanto successo in Italia. È il modo migliore per far arrivare a tutti gli altri paesi questa storia di successo e questo incredibile talento che Marco ha. Quali sono le caratteristiche sulle quali puntare per, tra virgolette, esportare in Europa un artista? Credo che non tutti possano essere esportabili. quello che gli altri paesi vogliono dall'Italia è un po' una classicità, ovviamente in questo momento anche con una chiave un po' moderna, però quello che funziona all'estero, mi ero dimenticato prima di dire Bocelli ovviamente, è quello che comunque è riconoscibile come italiano. D'altronde, se pensiamo ai successi internazionali non americani o inglesi che ci sono in Italia, per esempio i successi latini o spagnoli o dal Sud America o brasiliani, hanno tutti una forte caratterizzazione del proprio paese, un sound che comunque è riconoscibile. Per cui io credo che quello che gli altri paesi vogliono è comunque un qualcosa che suoni italiano e che appaia anche italiano, e Marco per esempio queste caratteristiche ce le ha tutte, che rappresenta proprio l'uomo italiano esteticamente molto bello, e il suo tipo di repertorio in questo momento è veramente quello che in Italia sta funzionando al meglio, per cui penso che le caratteristiche debbano essere queste. L'Eurovision però è un inizio, adesso tocca investire, ci sono stati degli investimenti che avete fatto fino adesso, adesso tocca continuare, cosa farete? Beh, in questo momento Marco ha già registrato comunque l'essenziale in spagnolo, siamo in contatto con i paesi latini, quindi con tutta la regione del Sud America e la Spagna per fare un lancio del suo disco. E qui non importa neanche tanto come andrà l'Eurovision, perché comunque c'è un gradimento da parte dei miei colleghi che prescinde dalla partecipazione all'Eurovision. E poi vediamo, insomma, perché comunque storicamente gli artisti italiani vendono nella lingua italiana e non in lingua inglese, per cui è sempre stato un passo di registrare in spagnolo, che quello è molto importante, però vedremo se insomma la canzone in italiano può funzionare in tutti gli altri paesi. Quindi l'investimento sarà quello, diciamo, l'Eurovision ci serve, oltre alle storie che abbiamo raccontato noi a tutti i nostri colleghi, ci serve per far vedere veramente cos'è Marco, è un talento pazzesco, per cui ci sarà da viaggiare un bel po' secondo me per Marco nel prossimo futuro, sì. Un effetto economico da sostenere, una ragione culturale, promuovere l'identità europea anche attraverso lo spettacolo. Nicola Caligiore. Quanto può servire, immagino la tua esperienza di questi anni, tu l'abbia visto in prima persona, quanto può servire l'Eurovision a creare anche nel pubblico un po' più di coscienza europea? Io trovo che sia un messaggio bellissimo, in un momento in cui proprio anche le fondamenta dell'Unione Europea tremano purtroppo, quindi è il momento invece piuttosto di promuovere la negatività, di promuovere la crisi mentale e culturale, non ti parlo di crisi economica, purtroppo c'è poco da promuovere, è ora di reagire, cioè ora di dire, cioè il motto dell'Eurovision è We are one, siamo unici, siamo un tutt'uno, e l'Europa ha delle radici comuni che sono incredibili, è ora di guardare oltre le differenze e cercare di farci forza l'uno con l'altro, perché il mondo sta cambiando, non voglio fare analisi politiche o geopolitiche banali, però il mondo sta cambiando e l'Italia, come la Francia, come la Germania, rischiano di diventare sempre più irrilevanti sulla scala mondiale. Insomma, è ora di superare un po' tanti attriti, tante difficoltà ed essere uno. Chiaro che non è l'Eurovision che farà l'unione politica, però che io auspico personalmente, non parlo come Rai, però insomma, l'Eurovision è un tassello per promuovere un sentimento in cui io credo moltissimo e insomma, credo ci si debba credere tutti. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between? Intanto ci sono già 4 città candidate a ospitare la cerimonia nel maggio 2014 in Danimarca, grazie alla vittoria di Emily de Forest. La favorita della vigilia ora si gode il successo e l'ingresso del suo album nelle chart degli scaricamenti e delle piattaforme streaming. I think it's an honor to represent your country. Credo sia un onore rappresentare il proprio paese, dice Emily, soprattutto perché io ho amato l'Eurovision fin da quando ero bambina ed è bellissimo per me rappresentare la Danimarca. Mi piace molto lo slogan We Are One perché la musica unisce la gente e la canzone che vince unisce l'Europa. Spero che la mia riesca a farlo.